Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La Baldrini! Baldrini! Baldrini! Giuseppe, ciao, ti saluto. E sento una cosa, mi stai deludendo, perché deridi Maurizio Belpietro, che è l'unico che abbia il coraggio di parlare di questo terrorismo fiscale che imperversa in Italia. Maurizio Belpietro è uno tra i più grandi giornalisti d'Italia, ha capito quel libido miliardario ebreo comunista che cosa era musulmano, quel libido ibrido, ibrido come un mulo, ibrido vuol dire fatto da tante cose, comunista, ebreo e musulmano, perché è con i musulmani, con i negri, e tra i negri ci sono musulmani, ci sono assassini, portano malattie, al cornuto del Papa, al cornuto del Papa. E mi dispiace di una cosa, dei patti lateranensi, perché una volta il Papa, prima di venire qua, doveva esibire il passaporto, si deve fare i cazzi suoi il Papa, bastardo. Tu sei miliardario, abiti la cosa qua, in un luogo di Roma di lusso. Appunto non li vedi questi bastardi che defecano per la strada. Capisci, ibrido? Non parli mai di terrorismo fiscale. Eri d'accordo pure con quel bastardo di Colombo, Furio Colombo. Perché non può vedere a Trump? Che gli ha fatto Trump? Quell'altro con le betelle là. Perché non possono vedere Trump? Ancora, che ne sapete di Trump? Che ne sapete? Ma tua figlia dov'è? Ogni volta sono curioso di parlare con tua figlia. Poveretta. Mia figlia, guarda, è una ragazza cortissima che tu ti devi inchinare. Ebreo, ibrido, come un muro. Ibrido vuol dire fatto da tante cose. Vedere, ebreo. Ti sei arricchito con l'immigrazione! Vergogna! Vergogna! Denunciatemi! Caro David! No, in tre, ho calcolato tre, due minuti e mezzo di copertina. Quanti reati? Un condensato di delirio. Era un condensato di delirio. Quanti reati? Ma è una cosa. No, almeno 10-12 ho segnato reati che potrebbero essere facilmente punibili dal codice penale. Ma dove sei, Woodcock? Dove sei, Woodcock? Dove sei, Woodcock? Lascia stare Consip! Lascia stare CPL Concordia! Lascia stare. Ultimo, dove sei? Del Garafe Noe, dove sei? Woodcock, apri un fascicolo permanente sui reati commessi in questa trasmissione. Permanente, fidati. Qui ci sono reati, qui si commettono quotidianamente. Veri, diciamo. No, sono reati, non lo so, sono veri anche gli altri, evidentemente. Però qui è sicuro che dove peschi trovi, sicuro. Allora, ragazzi, sentite questa signora. Ibrido. Sentite questa signora, questa passeggera di un treno vicino Lodi, la linea credo che fosse Lodi-Milano, la quale il controllore pizzica due migranti, come diresti tu, cercatore di felicità, la Boldrini direbbe risorse, due migranti di colore ovviamente. Che due hanno persone, cominciamo a chiamarle persone. Sì, senza persone. Biglietto, cosa da dire. Cioè, gli anche... italiani lo pagano sempre invece. Comunque, questi due migranti erano senza biglietto. Si sono italianizzati. Sì, vabbè, dai, tu dici portoghesi, i portoghesi ne abbiamo a bizzeffe da noi, no? No, pieno, si sono inseriti. Cioè, gli immigrati che non comprano il biglietto è la più grande dimostrazione del fatto che si sono integrati. Non c'è dubbio. Questa potrebbe essere una teoria interessante. No, comunque, questa signora, in questo treno della linea Lodi Milano, si incazza come una belva contro i signori migranti. Io pago il biglietto perché questa l'Italia, purtroppo se ve la prendete sempre con noi, noi paghiamo anche per voi, perché faccio video, perché siete degli infami, vi permettete anche di dire zitti a un capo, questo sta facendo il suo lavoro e voi invece non state facendo niente per rispettare l'Italia. Siete qua, non dite di non essere integrati, perché la gente vi integra, ma dovete comportarvi come noi. Ridi coglione. Ridi coglione, nessuno dell'Italia, tutti siamo tutti qua a pagare anche per voi. Basta dai! No, basta dai cosa? Chi sta cazzo sei per dirmi basta a me? Come lotta la signora? La signora è perfetta, come lotta? Collegata dalla vostra parte, ottimo, subito. Non pagano neanche il biglietto! E io li ho aggrediti, li ho messi in riga, Li ho messi in riga! Ma che cosa, ma che vergogna è? Ma che roba è? Aspetta. Se tutti gli italiani si alzassero come ci alziamo noi, sarebbe tutta un'altra cosa. Tutta l'Italia dovrebbe alzarsi così. Ma c'è sempre uno che si alza e gli altri che guardano. Questa è l'Italia. Noi paghiamo, lavoriamo. E voi cosa fate? Tanto siete arrivati dove volete, no? Per pagare voi. Vergognatevi che siete in giro dalla mattina alla sera mentre noi lavoriamo e dopo dite anche di non avere 5 euro per pagare un biglietto. Ma va a cagare. Sta zitto cosa? Ma che non sei in Africa che dici stai zitto. Non sei in Africa che dici stai zitto. Alle tue donne vai a dire stai zitto. Perché? Alle tue donne vai a dire stai zitto, hai capito? Qua siamo in Italia, si rispetta sia l'uomo che la donna. Animale. No, tu animale, tu che mi dici zitto, chi sei per dire zitto? Questa è la conclusione. Animale. Questa è la conclusione. Donna bianca ha detto animale al signore. Ma è una vergogna, veramente sei una vergogna. Questa, denunziatela. Ma ti assicuro, sono molto serio. Perché... Animale gli ha detto. Qui non siamo in Africa. Che gli ha detto, qui vai, non siamo in Africa. Non siamo in qui Africa. Qui non siamo in Africa. Come dire che in Africa non si paga il biglietto sugli autobus. Ma che ne sa quella lì che non è mai uscita? Dov'era questo posto? Lodi. Da quel cazzo di paese di Lodi. Non è mai uscita oltre Lodi. Quella lì e dice in Africa. Mai girato il mondo quella. Ma che se la prende? Ho capito. Animale. Ma uno si può incazzare. Con animale. Uno si può incazzare. Animale a uno che non paga il biglietto. Avesse detto la stessa cosa a un italiano bianco, a uno dei suoi figli magari, dei suoi nipoti magari, perché i suoi nipoti pagano il biglietto, ogni tanto fanno i furbetti anche i suoi nipoti, bianchi, biondi, cristiani e non musulmani, Ma io voglio sapere tutto di quella signora ora, voglio sapere se paga le tasse fino all'ultimo centesimo, se fa fattura fiscale, tutto di quella signora. Scusami. Animale. Cioè il punto fondamentale è che due non pagano il biglietto e pigliano per il culo il controllore sbagliano, e la signora e te la prendi con la signora. Certo, te la prendi con la signora. È quella da dell'animale. Ma dai, su. È quella da dell'animale. Vabbè, ha dato dell'animale perché quella pigliavano per il culo. Quella pigliavano per il culo. No, stai a un certo punto. Dicevano, dicevano. La persona, e non voglio neanche più chiamarlo migrante. La persona. La persona ha detto, dai, basta. Quanti italiani non pagano il biglietto? Dai, su. Quanti italiani non pagano il biglietto? Ma che c'entra? La stessa scena sarebbe avvenuta. Sarebbe avvenuta se il protagonista fosse stato un italiano, bianco, biondo e cristiano? Senti Mario, ma perché non gli paga i 2 euro e 3 euro? Perché non lo paghi? E allora che cazzo monti? Vai a piedi! Vai a piedi! Non c'hai soldi, vai a piedi! Vai a piedi, sì! Se no te ne vai a lavorare! Come fai in Africa? A piedi cosa vai? Col cammello in Africa? Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. In Africa col cammello. Non vedi? Ha, sì, ha detto così. In Africa non col cammello. Hai i soldi. Non l'avevo sentita, però vedi che ho immaginato già sì, come però sarebbe. Però io dico vedi? Una cosa. No, non hai i soldi per salire sul treno. Vai in Africa. Non hai i soldi per salire sul treno. I peggiori stereotipi. I peggiori stereotipi. Dai, su, ragazzi, non hai i soldi per salire sul treno. Dai, su. Uno che non ha i soldi, quello è il punto. Non la reazione della signora. Scusa, ho la tosse perché ho la reazione. Ho la tubercolosi da fascisti. Sì, mi attaccano le malattie. Ma che c'entra? Perché la signora è fascista? Non lo so. La signora è fascista. È una sciocca. È una sciocca, sicuro. È un condensato di luoghi comuni. Perché vai a prendere il cammello. La stessa reazione. Chiedo alla signora, che sicuramente telefonerà alla Zanzara perché ascolta questa trasmissione. Chiedo alla signora. Lei avrebbe avuto la stessa veemenza nei confronti di un italiano bianco, biondo e cristiano? Il processo alle intenzioni. La stessa reazione. Che sei nel cervello della signora. Prendila, prendi il. Ormai sono diventati luoghi comuni che si utilizzano in qualunque occasione, vedi? E purtroppo è così, il virus è quella roba là. Ah, questo è il virus. Questa è la vera malaria. Stai spostando il problema. Questa è la malaria. Questa è la malaria, la cattiva aria, la malaria è esattamente cioè, questa. Il problema è la signora e non quelli sì, che non pagano il biglietto. Il problema è esattamente la signora. Ma dai, bravo, su, hai capito allora, perfettamente. Grillo. La reazione della signora, cioè non la reazione della signora, la reazione della signora. Grillo. Cosa c'entra Grillo adesso? Che non dice, fa più niente, fa il comico. Siccome Grillo, i giornalisti c'entra? Pigliano per il culo, secondo me giustamente, il Movimento 5 Stelle perché presenta Di Maio e i Sette Nani, come ha detto Mentana, e sentiamo Mentana sui Sette Nani, Di Maio e i Sette Nani. Non c'è nessun altro dei big che è sceso in campo per insidiarlo, così si fatalmente si sprecheranno ironie, le ironie su Di Maio e i Sette Nani. Siccome i giornalisti chiedono di questa roba qua, cioè beh, di Di Maio e i Sette certo. Nani, chiedono, che cazzo chiedono? Beh, cioè, ovvio, chiedono questo, è normale, no? Di Maio non è candidato contro un altro cosiddetto big dei 5 Stelle, ma è candidato contro sette persone che sono sconosciute al grande pubblico. Sì, ma anche a loro stessi sono sconosciuti. Sì, ma... cioè loro stessi, quando leggono i nomi sui giornali, dicono, chi cazzo è questo? Ah no, sono io, scusami. Grillo, così, stamattina quando loro li leggo, io faccio fatica, c'ho qui il giornale, anche a ricordarmi i nomi, ma ho scoperto che anche loro stessi, Marco Zordan ad esempio, chi è Marco Zordan? Ah sono io, scusa, è vero, sì, ah, che bella foto, sono io proprio. Grillo, sì, si è visto sui giornali oggi, si è forse riconosciuto o si è chiesto, ma chi è questo, mi assomiglia, ah è vero, sono io, candidato a 5 Stelle, è vero, Zordan. Grillo ai giornalisti dice, vi mangerei per poi vomitarvi. Bene, bello, bel linguaggio. Vi mangerei tutti per il gusto poi di vomitarvi. Un minimo di vergogna voi la percepite per il mestiere che fate, sì o no? Un minimo di vergogna o perché fate il vostro lavoro da 10 euro al pezzo che giustifica tutto questo che state facendo, specialmente in questa città? Ogni giorno qualche dirigente che lavora per i partiti e non per il bene comune fa delle trappole. Andate a seguire i nostri assessori, andate a seguire l'AMAC, il lavoro che sta facendo, ma appaiono solo il topo, la zanzara, ma vi dovreste vergognare veramente. Un minimo di amor proprio per questa terra qua, un minimo, ce l'avete oppure non vi riguarda? Non avete nessun tipo di responsabilità. È una domanda. Ma va. Crucia Sinalote, latrina! La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Arenzo, sei come la sindaca di Monte San Savino. Gli immigrati sono cercatori di felicità. Basta che la cerchino a casa degli altri. Ipocriti. Arenzo bello. Noi te volemo tanto bene, ma te vuoi cura sta cazzo di influenza? Sempre con sti catarri, sta tosse. Ma che ha fatto? So 3 mesi che stai sotto un treno. Dai! Allora, voglio dire due cosine molto veloci su un non fatto. Non ho avuto il tempo di andare dal medico in questi mesi. Dai, è una vergogna mesi, questa un cosa qua. Tosse, dai, è una vergogna. Scusa, cioè, anziché avere solidarietà, vengo pure accusato. Cioè, uno sta male. Viene accusato perché la gente perché la gente non vuole sentire scoregge Rutti, sì, scoregge Rutti, sì. Non ho fatto nulla, ecco, no, invece io, ho pensato questa cosa, ragazzi, se voi sopportate scoregge Rutti, gente che viene qua e simula Pompini come ieri ha fatto la signora Febal, allora potete sopportare anche Parenzo che tossisce. Adesso non lo devo difendere io, però questa è la realtà. Non rompete i coglioni, sono solo della tosse. Andrò dal medico domani. Vai dal medico perché qui se no scatta la DBC, No, voglio dire due cosine sulla storia della signore che ha parcheggiato con la Ferrari, che ha parcheggiato nel posto per i disabili, poi ha insultato padre e il bambino disabile. La Ferrari ha invitato sia il padre che il figlio ai suoi stabilimenti a Maranello. Adesso questo naturalmente è una roba. Sì, va bene, bellissimo. Però il punto non è questo. La Ferrari dovrebbe. La Ferrari dovrebbe ritirare le macchine a chi fa cose di questo tipo. Cioè, dovrebbe inserire nel contratto di vendita. Siccome già una volta è successo in un supermercato in provincia di Milano. Cioè, se tu fai cose di questo tipo, nel contratto di vendita della Ferrari. Perché mi danneggi. Ci dovrebbe essere scritto: ti ritiriamo la macchina. Se tu attacchi i disabili in questo modo. I disabili. Molto bene. Ritirare la Ferrari a quel chiudiamo su questo, linea Barisoni, bellissimo, è una bella conclusione, bellissimo. È una bella, hai detto una cosa molto bella, dai. Oh, allora. Cagare, ma non rovinare, hai detto una cosa c'è bella. Diego, c'è Diego da Roma, senti. Signor Diego da Roma. Diego da Roma, Diego da Roma, dimmi. Chiedi, Diego. No, volevo dire a quel razzista di Parenzo. Come si permette di dire che i ragazzi, i figli di questa signora di Lodi non pagano il biglietto? Ma come si permette di insultare la gente quando è normale, logico, lo sanno tutti? La garbata signora si è rivolta ai due con un cammello in Africa. Fallo parlare un attimo. Ha fatto bene, Diego, e ha detto a quel signore che non sono in Africa perché stava maltrattando e rispondeva male a una donna. E gli ha detto anche: in Italia uomini e donne hanno gli stessi diritti, non come lei in Africa. Si vede come perché in Italia non ci sono stupri o violenze fatte dagli uomini sulle donne, dai, su. Le cose che sono quelle che fanno sì che gli immigrati o i clandestini o questi fetenti siano odiati da tutti, perché vanno cacciati giù dal treno a pedate. Eccolo. Anche in corsa. Eccolo qua. Anche in corsa. Eccolo. Democratici. Eccolo qua, i famosi democratici. Famosi democratici. È ora di finirla. Non è possibile che l'ATAC, le Ferrovie dello Stato. Scusami, Diego, che stai col giù in corsa. Allora stai col via voce, amico mio, stai col via voce. No. Togli sto cazzo di via voce, questo è sincero democratico. Siamo all'orecchio. Questo è sincero democratico. Allora, Diego Volpe Pasini dice: Parenzo, razzista, perché attacchi la signora che invece ha pienamente ragione. Lo voglio fare diventare editorialista della Zanzara. Signor Diego Volpe Pasini, uno degli. Allora, caccia, io dico una cosa: la caccia ragazzi. Alla volpe devono reintrodurre. Altro che. Allora, altro qui la questione fondamentale è questa: la signora ha ragione, tu abolita. L'hai attaccata per due paroline che ha detto. Questi qua non pagano il biglietto. Non pagano il biglietto, è una costante questa qua. Secondo Volpe Pasini, adesso questi non sono d'accordo, dovrebbe essere cacciati a treno, no? Mentre il treno sta in andando. Corsa, bello, un giro democratico. Tu bravo. Devi insegnare a questa gente che il biglietto in treno si paga. Ma cosa vuol dire? Lo metti fuori alla fermata dopo e risalgono sul treno successivo. Ma perché gli italiani pagano tutti il biglietto, invece facciamo il piacere, dai. La stessa reazione ci sarebbe stata. Io ho chiesto solo questo. Sono degli immigrati. Io ho chiesto solo. Ma scusa, la volpe, possiamo. Tutti quelli che non rispettano i controllori dei biglietti sono immigrati. Tutto quello che succede contro questa gente. Ah, perché invece gli ultras e i ragazzotti che salgono sui bulli italiani. Ma quali ultras? Quali? Non esiste un caso all'anno, forse. I bulletti di buona famiglia italiani che non pagano mai il biglietto e che scrivono sui vagoni dei treni I love you, Franci, kiss me, bubu. Ma vai a quel paese. E allora quei ragazzotti italiani che scrivono sui pullman. Dai, ma su, usate lo stesso metro di misura con tutti. Fermo lì. Rosario da Firenze. Rosario da Firenze. Eccomi, sì, ci sono. Dimmi. dimmi la Io insomma volevo fare un intervento in merito alla signora di Lodi, che sono molto favorevole alla signora. Signora molto mia, favorevole. Io l'abbraccio, l'abbraccio. Molto favorevole. Chiami qui alla Zanzara, ci racconti quello che è successo. Molto in treno e in autobus, io a margine di questo discorso, c'è da dire che mi sono trovato spesso, il controllore controlla me, per esempio, esibisco il biglietto, se c'è qualche persona... diciamo questi cercatori di felicità che non hanno il biglietto lo fanno scendere alla fermata successiva, bene, a me mi multano. A lei la multa. No, ma ha ragione Rosario, perché dice e questi questo qua... lo dico al signor Parenzo che però devo dire che ho apprezzato ad aria fritta perché annuncia bene la pubblicità. A che cosa? Vi ringrazio e buonasera, aria... vi ascolto per radio. Si chiamava Ale che tira quella Giuliano provincia di Roma, voleva fare lo spiritoso Rosario. Sì. Giuliano, vai Giuliano. Da Lodi, tutta Lodi chiama adesso. No, provincia di Milano, dai. Tutta Lodi. No, io sono in provincia di Milano, infatti non sono di Lodi. Vabbè, Giuliano, dai, forza, dai. Sì, a quel signore lì che hai a fianco, gli do del lei. Mi pare di capire che vogliono interloquire con me, mi pare di capire. Ma certo, hai attaccato la signora che protestava contro due che non pagavano il biglietto, e che cazzo? Esatto. Abbiamo lì, a me se non concesso che abbiamo anche gli italiani che non pagano il biglietto. Ecco, che sono io direi ammesso. E ho chiesto, la stessa cosa reazione. E ho chiesto di se ci fosse stata la stessa reazione. Ma è diverso, quelli pigliavano per il culo il controllore, dai, su. Ah, perché invece gli italiani non lo fanno. Ma sì, lo faranno pure, sicuramente. Allora basta, stessa reazione però. Non è che vedi come sono negri. Ma perché devi fare il processo alla signora? No, la signora, cazzo, la è una che protestava contro... dalla animali, pancia, vabbè, animali. Lei è uscito dalla pancia, animali, tornate in Africa. In Africa non si paga il biglietto, prendete il cammello, che sono quattro classici stereotipi. Mamma mia, che paura! Il nazismo, ritorna il fascismo, no, mai ritorna detto il colonialismo. È la stupidaggine, dai, non il, ma su, qual è il nazismo? Fermi qual è, tutti. Non ho mai usato una di queste. Fermi gli italiani. Niente, mi feci fare un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trance, David sta andando a trance, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trance, David sta andando a trance, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trance, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta la Zanzara. Qui vi metto in riga tutto! Pronto? Io sono pronto. Ma come ti sei conciata? Perché ha un vestito lì, Luigi 113. Perché? Ma non andiamo mica a ballare in minuetta, andiamo in discoteca. Guarda che così le galline non ti cacano neanche. Ah, ma guarda che le galline non mi interessano mica, sai. Maron, babbo, guarda, non è venuto né canna né pesce, né maschio né femmina, né ibrido. C'è il babbo che si sta ribaltando dentro la tompa, maron. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccimi i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Parenzo c'è ragione, la signora di Rodi si deve fare i cazzi suoi, non è portavoce del popolo italiano, non è un controllore, quindi se quello lì non ha pagato il biglietto non sono cazzi della signora. Bentornato in vacanza Cristiano. Ma mi sembrava che sei rincoglionito di prima. Che cazzo che ti dico, che ti ha detto che l'Africa non si paga il biglietto? L'Africa lì sale, timbra il biglietto prima di attraversare, perché il modo del pullman fatto è diverso. Come qua, maggior parte siete, probabilmente tutti l'avete causato voi. Fate rincoglionirsi anzi quelle che sono immigrati che sono dentro voi. Quel signore lì ha fatto un balordo di minghiata che parlate in Africa, non pagate i biglietti, non pagate. Non ha capito un cazzo dell'Africa. Quindi non devi dire la minghiata. Testa di cazzo. Ma che cazzo ne sa quell'animale di Parenzo dei treni interregionali, dei treni dei pendolari? Lui male che vada a prendere il suo Eurostar e con quei negri non c'ha niente a che fa. Me I'll be there. Don't you ever let me down. Siete qua, non dite di non essere integrati, perché la gente vi integra, ma dovete comportarvi come noi. Ridi coglione. Ridi coglione, e nessuno dell'Italia. Tutti, siamo tutti qua a pagare anche per voi. Basta, dai. No, basta, dai cosa? Chi sa cazzo sei per dirmi basta a me? Sta zitto cosa? Ma che non sei in Africa che dici stai zitto. Non sei in Africa che dici stai zitto. Alle tue donne vai a dire stai zitto. Alle tue donne vai a dire stai zitto, hai capito? Qua siamo in Italia, si rispetta sia l'uomo che la donna. Animale. No, tu animale, tu che mi dici zitto, chi sei per dire zitto? È inutile dirti, caro Davide, quanti messaggi. Vai in Africa. Ma che vuol dire? A Nelson Mandela gli avrebbe detto vai in Africa. Ma che c'entra? Mandela, perché in Africa sono tutti così, sono tutti delle bestie, tutti degli animali. Basta con questa storia. Bisogna alzare la voce, bisogna farsi sentire contro questa roba. Ripeto, l'episodio è grave, due persone non hanno pagato il biglietto. Benissimo, anzi, malissimo. E allora? Ma cosa c'entra dagli degli animali? Ma quella signora protestava perché la pigliavano per il culo. Quella cara signora di Lodi che stai facendo diventare la Marianna, la paladina delle regole, la Marianna allora, di questa cosiddetta rivoluzione popolare dal basso contro il migrante. Quella signora è una gran maleducata. Quella dovrebbe usare lo stesso metro di scusa, misura magari chiedere scusa ai migranti. Questo stava a Sandini. Io voglio nome e cognome di questa signora e voglio sapere tutto di questa signora, se paga le tasse fino all'ultimo centesimo. Voglio sapere se i suoi figli mamma li ha educati mia, bene a dire buongiorno buonasera. Voglio sapere se ha educato, voglio sapere se hai, perché quelli che alzano il ditino così animale tornatene in Africa, magari sono gli stessi che così, educano, dai, i propri figli, che quando vedono una donna incinta, anziché alzarsi bianchi, italiani, cristiani e non musulmani, si voltano dall'altra parte. Ma dai, su. Vergogna. Fabrizio da Roma, dai, Fabrizio. Vergogna. Lorenzo. Fai schifo, Lorenzo, mia figlia l'hanno multata 24 euro perché non aveva pagato il biglietto. Esatto. Italiana. Ottimo, sua figlia, come mai? Bella educazione che gli hai dato a tua figlia. Bella educazione che gli hai dato a tua figlia. Bella educazione che gli hai dato a tua figlia. Bella educazione. Fermi lì. Riportiamo Fabrizio, la discussione in termini Fabrizio, civili. Se comincia a urlare non capiamo innanzitutto. Riportiamo... C'ha ragione la signora. Non si capisce niente. Devi mettere bene il telefono. Riportiamo la discussione in termini giù, civili. Via, Fabrizio non si sente. Ivan da Massa, dai. Ivan, richiamate, però dimmi di chiamare da un telefono normale. Ivan, dimmi. Riportiamo la discussione in termini pagati e civili. Dai, Ivan, dimmi. Dai. Come nella consuetudine di questa discussione. Dai, Ivan, vai avanti, forza. Io sono ragazzo, ho 41 anni, sono un ragazzo di colore. E vabbè, chi se ne frega se sei nero oppure bianco? Che differenza c'è? Ma ti faccio capire, sono nato qua e vivo qui. Questa signora del biglietto, il biglietto del treno, l'avrei voluta vedere in mezzo a un gruppo di ultras. Ma cosa c'entra? Perché? Secondo te ha sbagliato? Ha sbagliato nei modi, gente tornati in Africa. Io. Ma scusa, amico mio, quella là si è incazzata. Tu l'avresti messa a posto lei e loro invece? Con e gli altri? Anche, certo. E gli altri? E gli altri? Anche. Devono pagare i biglietti. Sì, ma ragazzi, qui la questione è molto semplice. Questi due, certo, pigliavano per quella, si è sentita presa in giro. Si è sentita presa in giro perché magari paga. Dovete smetterla con questa roba qua. Magari paga un abbonamento. Magari, Ivan, non mi interessa. Paga un abbonamento, magari 100 euro al mese o 50 euro al mese sui treni per fare la pendolare ogni giorno. E si vede questi qua che stanno lì, non pagano, se ne fottono. Pigliano in giro il controllore, pigliano in giro gli altri. E autorizzano la signora a dargli del negro. Fare la stessa cosa con gente che non era di Ma che c'è, ma siete matti? State facendo il processo alla signora? Sì, il processo alla signora state facendo? Non è un processo, ma dai, su, avessi dato del coglione. È arrivato Ivan che adesso c'ha la solidarietà di colore, certo. La solidarietà di colore, no. Perché è nero come quelli, no, là, dai. La solidarietà per tutti, ma a per nessuno, tutti cosa, dai. così. Sì, non si può permettere di dire animali semplicemente perché quelli là dicono stai zitta, non gli puoi dire animali, ma che siete matti, ragazzi? Ma non dice nessuno. Ma che è una sala da te? Che cos'è una sala da te? Lo facesse con gli italiani, lo facesse con tutti. Io non avrei fatto nulla, non avrei detto niente. Ma è la signora che non è normale. La signora non è normale, quelli che non pagano il biglietto invece? Ma quelli certo, cosa c'è? Quelli hanno sbagliato, ovvio. E chi gli fa queste scene? Ma stai scherzando? Ivan, ma non credo, ma che sei? È ovvio che quelli hanno sbagliato. Arriva uno, Ivan. Fratelli autobus, non so quanti ne ho presi. Sono di colore. Comunque, abbiamo appena sentito la telefonata di un signore che poco fa urlava come un ossesso. C'era un signore, un italianissimo personaggio. Che prima urlava come un ossesso. L'animale è lui, questo Fabrizio da Roma. No, quello Fabrizio da Roma è un animale di sicuro per il linguaggio che ha utilizzato. Che ha confessato candidamente che se lui è adorabile figliolo. Sì. Ha preso una multa, quindi si vede che non l'ha educata a comprare il biglietto. Scusatemi. Ma certo, tutti noi abbiamo preso una multa. Anch'io al liceo l'avrò presa una multa, sicuramente. Fabrizio, dimmi. Mi senti? Sì, ti sento. Allora, scusate, prima urlavo troppo perché Parenzo mi ha fervorito. Scusate. Allora, signor caro Parenzo, io mia figlia l'ho educata molto bene. L'ho anche graziata per non aver fatto il biglietto. La multa si è meritata. Però la multa l'ha presa, però. L'ha presa. Infatti, le multe vanno pagate, certo, ma non c'è dubbio. Con i suoi soldi, perché bene, non gli ho dato una lira. Bravo. Ma quelli se ne sbattono invece, quelli se ne fottono. La signora, se mi permetti, signor Cruciani, scusa, la signora ha fatto benissimo. Quel tuo carissimo amico emigrato se l'è cercata. Hai visto quello lì che ha dato la telefonata? Che ha detto lui, in Africa noi il biglietto lo paghiamo prima di entrare nel pullman. Ah, lì lo paghi prima, però entra dentro ai premi nostri, non paghi un cazzo. Ma non è un problema di persone di colore. Colore. Scusa, ma per quale motivo? Ma se sembra... E poi maltratti il controllore. Ciao Fabrizio. E intanto, a Napoli, San Gennaro. Il sangue sciolto di San Gennaro, l'ennesimo miracolo ogni anno, lo stesso giorno, chiamano miracolo. Se è un miracolo, sennò come si chiama? Ma dai, su! Adesso vuoi fare le pulce anche a San Gennaro. Adesso vuoi criticare anche San Gennaro. Amico, Cruciani contro San Gennaro. No, benissimo. Ma contro San Gennaro pure. Chi se ne frega? Ragazzi, non ho capito il sangue perché di San Gennaro. Ma che ti non importa? Mi dici, non crederai mica al sangue di San Gennaro. Ma io, come tu sai, sono di un'altra ma non c'entra niente situazione. Ma quindi che c'entra? Sicuramente non credo. Dopodiché non me ne frega niente. Il sangue sciolto di San Gennaro. Vabbè, è sciolto il sangue di San Gennaro. Lo stesso giorno ogni anno. Ogni anno, lo stesso giorno si scioglie il sangue di San Gennaro. Ma che te ne frega te? Lo stesso cosa ogni anno, lo stesso giorno. E ho capito, si scioglie il sangue. È un miracolo, sennò come si chiama? È andato anche Di Maio. È andato anche il signor Di Maio. Anche Di Maio. Signor Di Maio, dopo aver annunciato la sua candidatura, è andato lì. È andato lì. Che dice per la prima volta il miracolo di San Gennaro. Vabbè, bene, infatti. È un miracolo come quello delle primarie che si svolgono regolarmente. No, quello, è uguale. Quello non ci sarà nessun miracolo. È un altro miracolo. È tutto anche scontato. Sono due miracoli anche quelli. No, è la prima volta che vengo qui ed è una grandissima emozione, ma soprattutto è un grande momento anche legato alla nostra religione di fede, e io sono un fedele, quindi mi faceva veramente piacere esserci. Allora, uno come Di Maio, i 5 Stelle dovrebbero prendere il mito di San Gennaro e rivoltarlo come un calzino. Perché? I 5 Stelle sono nati farlo online, per fare la rivoluzione. Il miracolo online. Certo. Non sei il sangue nel computer, normale. Come è normale? Guarda che lì sono i fedeli. Ma naturalmente con la tastiera, con l'iPad fai il miracolo. Ragazzi, i grillini, il candidato premier grillino che crede a San Gennaro, ai miracoli di San Gennaro. Non mi pare niente di male. Sì, ragazzi, però i grillini mi sono pare nati... che la situazione siano... Ci sono altre situazioni che meritano maggiore attenzione. Sì, sette nani, eccetera, eccetera. Da Napoli dicono il sangue si scioglie per i poveri disoccupati e per il Napoli. Per il Napoli. Per i giovani, per i poveri e di fare più, di più per il Napoli. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Ancora una volta ha manifestato la sua bontà nei riguardi di noi tutti napoletani. Napoletani, andate a lavorare, ad cosa anche San Gennaro, anche chi è morto, sfaticato! Guarda, io ti denuncio, She's got friends, but hate it when I come. La pacata opinione di Vittorione Sgarbi su Di Maio, d'altronde non ha mai negato il signor Sgarbi la sua simpatia nei confronti di Di Maio, certo, Di Maio, certo. Il webmaster. Di Maio, una scorreggia fritta! Di Maio, chi cazzo è? Ma cosa ha studiato? Ma che era da studiare? Incapace! Di Maio? Di Maio? Ah, ma no, ma noi siamo contro i vitalizi, cazzo! Fai il presidente della Camera e prende 18.000 euro al mese e non sa un cazzo! Questa è la tragedia! La tragedia! Stefano da Roma, vai Stefano. Comunque scusami, sì, sul pronto. Tema del biglietto, sì Stefano, sì. Mi chiedo scusa, le diamo subito la parola. Mi Prego. Scrive, non voglio dire il nome, Chicco sì. Ortona, che è uno dei miei più cari amici, un simpatico ragazzo, imprenditore. Cioè, mi scrive, io ho preso la multa recentemente a Napoli per aver preso una metropolitana senza biglietto, l'unico ad aver preso la multa. Agli altri non l'hanno fatta, o locali o abbronzati, loro non pagano e non puoi andarli a cercare, ha detto il controllore dandomi la multa. Certo. Napoli. Certo. Certo, locali, ma guarda che locali, hai citato una cosa a tuo detrimento. O locale, quindi ma certo, dire, ma non è che sono solo loro che non pagano. Sì, ma per dire, Ortona, Chicco Ortona mi dice, non è che si sono ribellati nel vagone lì contro di me, ecco, che non ho preso il biglietto. Ma che vuol dire? Ma quelli, capito? Pigliavano per questo il culo. Questo è per questo pigliavano per il culo sia il controllore e poi anche la signora dopo, ma non hai sentito? No, per dire, dai, che Stefano, forza, dai Stefano. Sì, buonasera, salve. Allora, io intervengo appunto in questa discussione perché sono un capotreno, quindi sì. Posso ottima delucidarti allora premetto che io sono sempre stato d'accordo con Parenzo su sì. tutto io ti ammiro, ti apprezzo, grazie, ho mandato tanti messaggi su non li WhatsApp. Mandano mai in onda perché c'è un criminale che preme i tasti alla regia, ecco, che si chiama La Corte, che è stato denunziato anche a Strasburgo. La Corte si chiama Strasburgo. Riguardo a questo ti voglio correggerti, sì, perché la situazione è più grave di quello che pensate voi. Allora, la gente è esasperata. Io ti confermo quello che ha detto il collega che ha riportato prima Cruciani. Noi non sappiamo cosa fare con questa gente perché sono sprovvisti di documenti, non hanno nulla. L'unica cosa che possiamo fare è farli scendere alla fermata successiva. Io personalmente, e sono di sinistra, non sono un razzista, non lo quello fai. Che ti va, te lo dico, li fai scendere o no? Certo, certo. Altri no, però altri non hanno il coraggio, magari non gliene frega niente di farli scendere perché non vogliono guai, magari. No, guarda, per quello che riguarda la mia divisione, perché noi siamo divisionati. Sì, vabbè, amico mio, adesso lascia perdere divisione, eccetera. Che succede concretamente? Vabbè, allora, io ti dico che io e i miei colleghi, noi li facciamo scendere tutti quanti. E questo sì. Te lo posso assicurare. Le multe non le fate, perché è inutile. No, le multe, a chi gliele fai? Appunto, dico, è inutile, ma c'è un'impunità pazzesca. Non hanno un recapito, scusami, ma a chi gliele faccio io le multe? Appunto, dico, appunto. Cioè, loro sai al massimo che cos'hanno? Il tesserino del cara di Mineo. E che a chi gliela mando io la multa? Appunto, scusami. Ma tu da uomo di sinistra non sei incazzato per queste cose? Non no, sei ma infatti se hanno... Certo, ha ragione il lavoratore, il controllore. Ma signora, ha torto, avere ragione. Hanno, però se hanno il tesserino del CARA di Mineo, vuol dire che sono dei rifugiati o quant'altro. Quindi andrebbe fatto proprio un salvacondotto. Cioè, non devono pagare il biglietto. Aspetta. Palazzo dice che non devono pagare il biglietto. Sì, ti sto dicendo. Va legalizzata la situazione. Il controllore ha ragione. Va legalizzata la situazione. Cioè, se uno ha il tesserino di rifugiati, il tesserino, vai al CARA di Mineo e magari va a fare un lavoretto, una cosa, eccetera. Cioè, non devono pagare l'autobus. Non devono pagare l'autobus. Sembra una cosa ragionevole. Ma sei impazzito? Tu sei legalizzata? Pazzo, no, sto dicendo seriamente. Cioè, se uno è va al legalizzata CARA di Mineo, la truffa, va legalizzata. Ma quale truffa? Dai. Se uno è al CARA di Mineo, allora è evidente deve andare che non gratis ha un su treni reddito, autobus. No. Treni autobus gratis. Invasione, ma basta che non, ma ovviamente invasione. Treni se va autobus gratis. Intanto allora, Parenzo, due punti. A lavorare, gli immigrati non devono pagare il biglietto. No, ma non immigrati in generale. Cosa vuol dire gli immigrati in generale? Che sciocchezza è? Vabbè, i richiedenti asilo. I richiedenti asilo, certamente. Quelli che stanno aspettando il permesso di soggiorno, benissimo. Stefano, che dici questa follia? Parlate solo voi, scusate, io volevo portarvi anche altre testimonianze. Sentiamo, di quello che combina questa gente, per esempio? Furti. Sì. Io se vuoi ti racconto un piccolo episodio, te lo faccio breve. Un treno notte da Bari, sì. Io lo prendevo da un'altra stazione, lo prendevo in carico. Allora? No, un treno notte, treno cuccetto e vagoniletto. Allora? Uno di questi qua si era messo prima della partenza del treno da Bari, quindi non c'ero io lì, sì. C'erano una coppia di colleghi, si era nascosto sotto la cuccetta. Sì. Sai cosa sono le cuccette? Sì, sono dei compartimenti con lettini, non vagoniletto, ma non sono letti. Secondo te. Si era nascosto sotto, nessuno l'ha visto, è montata prima una ragazza e una seconda sempre in Puglia. E che è successo dopo? Che è successo che queste non lo hanno visto, si sono addormentate, lui dopo un pochetto ha visto che tacevano, si è alzato, gli ha rubato telefono, soldi male, e ladro, tutto quanto. Male. Poi non è riuscito ad uscire perché il compartimento era bloccato da dentro a una doppia serratura, loro se ne sono accorte, hanno urlato, hanno chiamato il cuccettista è intervenuto, lo hanno portato da me che ero il capo, io non ho potuto fare niente, ho fermato il treno in una stazione successiva, ho chiamato la Polfer, la Polfer dopo avermi fatto tre chiamate, dopo che non potevano intervenire questi, mi sono scappati. Con il telefono di una nei coglioni, perché lo zainetto sono riuscito a perquisirglielo, e i coglioni però non glieli posso perquisire. Eh beh, no, quello no. Ok? Sono scappati, io sono riuscito a dargli un calcio in culo a uno, che se mi vedevano mi denunciavano anche, capito? Stefano, bravo, sei numero uno, ciao amico mio, ciao. Ciao. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, uno di quelli che è stato soprannominato dal signor Mentana, che sono stati soprannominati da Mentana sette nani, cioè uno degli sfidanti del signor Di Maio per la candidatura premier dei 5 Stelle. Si chiama Gianmarco Novi, buonasera. Buonasera. Ciao Gianmarco. A voi, buonasera agli ascoltatori. Allora, come sta, caro? Come i sette nani? Io sono alto 1,85 m, Di Maio è alto 1,60 m, cioè... Mi faccia capire, no? È una metafora. Ma ti sei sentito un po' offeso da Mentana perché ha detto sette nani? No, assolutamente. Che sono, dunque dice che sono siete inesistenti, cioè siete persone che non vi conosce nessuno e siete là come fantocci, diciamo, no? Siete le persone che stanno lì per una pantomima, allora, per una farsa. La scelta di candidarmi pur sapendo quello che sarebbe accaduto mediaticamente l'ho fatta io. Ed è una scelta assolutamente coerente con quelli che sono i principi del movimento. No, ma non voglio capire, secondo te, scusami Gianmarco, secondo te queste primarie sono una farsa, sì o no? Cioè Di Maio contro persone che non hanno nessuna possibilità, non sono una farsa. Cioè tu hai qualche possibilità, secondo te? È un metodo che dovrà consolidarsi, avrà bisogno di tempo. Noi stiamo partendo con delle... procedure che ovviamente adesso possono avere perché non si è candidato un altro big tipo un Di Battista, uno di questi qua, Fico eccetera, ma perché? Probabilmente perché se si fosse candidato qualcun altro di questi tra virgolette big poi dopo i media avrebbero urlato al movimento si spacca, ci sono media. Due correnti perché si spacca, no? Perché? Ma assolutamente so, cioè, secondo dica, te qualche dica, possibilità, media, qualche possibilità hai tu Gianmarco? Di vincere io, oggettivamente, guarda, allora, no, ma dimmelo oggettivamente: 0%. Posso chiamarti Giuseppe. Sì, no, come no? Beh, sì, perché, siete amici. Quanto? No, perché lo 0%? Scusami Giuseppe, ma io ho fatto questo ragionamento. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che, come dice il suo fondatore Beppe Grillo, è un movimento che non è fatto da leader, non è fatto da leader carismatico. Ho capito, amico mio, dovete candidare un leader comunque. Quindi Grillo non è stato leader in questi anni? Quindi lei mi sta dicendo che Grillo non è stato un leader in questi anni? Grillo è stato un leader perché noi in Italia siamo abituati ad avere dei leader a seguirli. No, però Gianmarco, però, scusami un attimo, ovviamente. Però facciamo ordine. Adesso non è che vogliamo qui ripetere tutto il mantra del Movimento 5 Stelle, però la domanda è questa: quante possibilità hai tu di vincere? Ti senti oppure è già persa la una su sette ne avrà, no? Dai, dimmi la verità, non hai nessuna possibilità. Ti candidi così per dire la tua, perché però non hai nessuna possibilità. Perché, assolutamente. Io cioè, pensi di poter battere Di Maio? No, io non sono lì per battere Di Maio. E come no? Allora che te candidi a fare? Io sono lì per vedere se c'è una parte di movimento che non si sente rappresentata totalmente da questa figura carismatica. Di Maio. Ma non capito, ma non sei lì per battere Di Maio. Che cosa ti candidi? Ma che cosa ti candidi a fare se non vuoi battere Di Maio? Uno si candida per battere un'altra persona, altrimenti che ti candidi a fare? Così, per finta? Sì, certo. E allora lo vuoi battere o non lo vuoi battere? Premier. Ho capito, amico mio, ma hai detto prima che non ti candidi per battere Di Maio? Ho capito, nel senso che non è una competizione. E che cos'è? Per forza la politica è competizione. Sto facendo il mio ruolo da attivista. Ma la competizione è bella, sai, è quello di prendersi delle responsabilità. Ma lei avrà delle posizioni diverse, però immagino, rispetto a Di Maio, dirà delle cose diverse, perché se dice la stessa cosa le banche, non avrebbe le senso. Banche per te sono... noi abbiamo un bellissimo programma. Sì, che però aspetta, ma qui noi non possiamo, non parliamo dei programmi, perché ci facciamo due palle. Ci sarà una cosa che la distingue da Di Maio, una. E quindi poi dopo ognuno, diciamo, ovviamente darà la maggior risalto ad alcuni punti piuttosto che amico ad altri. Mio, io posso dare amico, maggior risalto ad alcuni amico punti, mio, dai, Di Maio potrà darne ad ho altri. Ho capito, ma dai, su, sono Di Maio contro sette persone sconosciute, è evidente che non c'è possibilità, dillo, io mi candido ma non ho alcuna possibilità di vincere. Cioè, no, assolutamente, non è così. Non è così, va bene. Allora almeno mi dica una cosa che la distingue da Di Maio, però. Democrazia. Ma che è la vera democrazia? Ovviamente deve essere perfezionata. Ci sono, senti ci sono un attimo, tu però la caratteristica principale è che tu sei. Sì, va bene, d'accordo. Però questo è un inizio di una grande rivoluzione. Sì, va bene, d'accordo. Però qui non fare la propaganda da noi. Perché avere la democrazia. Sì, ma la propaganda da noi non funziona, amico mio. La propaganda da noi non funziona. Falla su web, falla online. Da noi la propaganda non funziona. Allora ti voglio dire una cosa, amico mio. Tu sei fruttariano e vegano, anzi, vegano tendente fruttariano. Oh, finalmente. Sì, mangio molta frutta, così come la dieta mediterranea prevede. Mangiando molta frutta non riesco a mangiare altro. Sei fruttariano, sì o no? Pasti come si prevede e mangi cinque razioni di frutta, dice la dieta mediterranea. La dieta mediterranea dice di mangiare. Sì, ma tu sei fruttariano frutta, e vegano o no? Sei fruttariano o no? No, allora non mangio carne, non mangio pesce, non mangio derivati. È una scelta che è arrivata perché diciamo per questioni di salute ho iniziato ad agire sulla mia dieta per stare meglio, ho visto che funzionava, ho visto che stavo sempre meglio man mano che eliminavo sempre più alimenti. Ma è vero che per esempio si fanno meno peti? Così dicono. Fanno meno peti? Sì. No, veramente. Dipende, allora, come tutte le cose, come mangi, sai, se mangi un po' disordinato poi dopo ti può succedere. I fruttariani dicono che si scoreggia di meno, o comunque sono diverse, sono più morbide, producono meno gas. E chi mangia la carne, secondo te chi è? Un assassino, uno che... Non è un assassino, è una persona che non è consapevole. Non ha capito. Non è consapevole, allora se noi avessimo... come a me piacerebbe fare veramente conoscenza di come sono i processi alimentari, cioè non ha conoscenza, funziona. Chi continua a mangiare la carne è complice di un grande omicidio nei confronti degli animali, sì o no? Assolutamente, noi siamo complici, chi continua a mangiare la carne è un qualche cosa che viene nascosto, capito Giuseppe? Permettimi c'è nascosto di... cosa? Il fatto che la carne è pericolosa viene nascosto? Non è soltanto il fatto che la carne è pericolosa, adesso mi sembra che anche l'Organizzazione Mondiale... Ma tu metteresti le etichette sulle confezioni? Tu metteresti le etichette sulle confezioni? Come sulle sigarette? Come sulle sigarette, ma io a me non piace il terrorismo. A me sì, non ma piace le metteresti sì o no? Non le metterei, fermo. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. La zanzara. Allora ragazzi, abbiamo con noi Gianmarco Novi, che è un ragazzo quarantenne di Monza, che si candida contro Di Maio. Ma io so che tu, Giuseppe, sei del 15 settembre, come mio padre. Mio padre il 15 settembre ha compiuto 80 anni. Pazienza, tante persone sono nate il 15 settembre. Qui è quarantenne di Monza del Movimento 5 Stelle che si candida contro il signor Di Maio. È fruttariano e vegano. Potrebbe essere addirittura il primo candidato premier fruttariano e vegano se dovesse battere Di Maio, cosa naturalmente non accadrà. Vuole introdurre addirittura nella non so dove come legge quello che viene chiamato l'antispecismo, cioè secondo lui un uomo è uguale a un animale, cioè mia figlia è uguale ad un maiale. Io però non accetto che mia figlia è uguale a un maiale. Come no? Scusa, come è quello? Cose. È quella? Assolutamente. Ma come no? È così. Non è una questione. Vorresti proibire la caccia? Per esempio, vuoi proibire la caccia? Vuoi proibire la caccia? Sì o no? Mi rispondi o no? Vuoi proibire la caccia? La caccia va proibita, allora, sì o no? Abbiamo un sistema per cui. Ma ragazzo, io ti ho fatto una domanda, mi devi rispondere. Non mi fare attaccare il telefono. Vuoi proibire? Ho capito, basta, mi devi dire di sì. Risposta. Il giudizio personale va proibita, benissimo. Secondo me è barbarica. Benissimo, okay, pratica barbarica. I vaccini, sei d'accordo con i vaccini oppure secondo te non vanno imposti? I vaccini non vanno imposti, assolutamente. Provocano danni all'uomo? Mi rispondi, provocano danni all'uomo? Provocano danni all'uomo, sì o no? I vaccini? Sì. Certo, c'è scritto. Possono portare all'autismo? Certo, possono portare all'autismo? C'è scritto nelle controindicazioni. No, veramente non c'è scritto. Però non è scritto che i vaccini portano all'autismo. Anche l'aspirina, se la prendi, ti può far male, non ne hai bisogno. Ma che c'entra? Allora, che vuol possono dire? Portare all'autismo, sì o no, i vaccini? Sì, sì, assolutamente. Possono portare all'autismo. Ma è fuori dalla qualunque provato, comunità scientifica. Il Montanari ha portato dei dati a supporto. Allora, tu sei sostanzialmente un candidato fruttariano, vegano, naturalmente va da sé. Antivaccinista mi sembra e sei anche contro le banche, però il tuo amico Di Maio è andato lì a pochi giorni fa a Cernobbio. Cioè tu pensi per esempio che il Bilderberg, io non so le banche devono fare il loro lavoro, non devono governare, non sì devono d'accordo governare il Bilderberg stati. Per esempio è uno che governa un'istituzione che governa il mondo? Certo, cioè, certo. Cioè però, il mondo è governato dal Bilderberg. Sono gruppi di potere. Noi avevamo un candidato va bene, questo mi basta. A capo dello Stato, Imposimato, che ha spiegato bene che cos'è il Bilderberg. Cos'è un gruppo di persone? Cos'è il Bilderberg? La camorra, la mafia, che roba è? Che possiamo chiamare la mafia, perché quando un gruppo di persone è una mafia. Persone rispettabili che si ritrovano per discutere dei problemi del mondo e magari fanno un'operazione di lobbying, sono una mafia. Bene, abbiamo capito questo. Ma se le persone rispettabili convinte di essere migliori di altri, quindi di potersi unire in base al fatto, ma solo perché non vi hanno invitato, ma la cosa è molto semplice, i cittadini che cosa va fatto e che cosa non va fatto, questo è il concetto. Ma secondo te i banchieri sono dei grandi truffatori? I banchieri? Assolutamente sì. Sono dei grandi truffatori. Creano moneta dal nulla, la prestano agli stati e se li cosa fanno restituire con gli comunque uno come degli si fa a pagarti lo stipendio, aspetta, amico mio? Come si fa a pagarti lo stipendio senza la moneta? Allora, come si fa? Può essere, allora a questo punto che sia lo Stato a creare moneta dal nulla, io voglio essere lo Stato deve creare moneta dal nulla. Se lo può fare una banca, se lo può fare un'istituzione privata, perché non lo può fare un'istituzione pubblica? Lo Stato siamo noi, creiamola noi. Allora, la moneta, decidiamo uno dei tuoi avversari, uno dei tuoi avversari, diciamo per modo di dire, che si chiama Cicchetti, ha detto che tutta la procedura è una sonora cazzata, quella che avete messo in moto, quella del Movimento 5 Stelle, una sonora cazzata. Tu invece ci credi in questa procedura? Assolutamente, sì, certo. Cioè tu pensi veramente che uno vada a votare su internet e questo sia è meglio questo dei gazebo del Partito Democratico? È più democratico questo? Assolutamente sì, beh, soprattutto noi non ci facciamo dare 2 euro. Invece esattamente il contrario, perché almeno il gazebo del PD sono persone fisiche che tu vedi, fanno la coda, può piacere o non piacere, ma meglio i gazebo. Non sai neanche chi sono le persone che votano, almeno al gazebo vedi un atto politico vero, vedi persone in carne e ossa. Parenzo, ma se abbiamo visto che ha fatto votare anche i cinesi, ha fatto votare anche i questa è un'altra questione, ma almeno vedi persone di carne e ossa. Perché invece su internet è tutto trasparente sulla rete. Capacità di intendere, di volere, Novi, credi alle scie chimiche? Allora, non sono assolutamente provate. Io sento parlare anche di generali di questo tema, però è un tema che non ho approfondito. Cioè, sono pericolose queste scie o no? Ma cosa sono le scie chimiche? Se sono reali, non posso dire sono pericolose. Allora, le torri gemelle, chi le ha tirate giù? Gli americani? Le torri gemelle, chi le ha fatte cadere? Gli americani sono stati un complotto? Di che cosa stiamo parlando? No, così le chiedo in generale, le torri gemelle come sono cadute? Per un complotto degli americani? Ma allora, ci sono delle questioni, se vogliamo, scientifiche. Ci sono stati 2000 ingegneri che hanno scritto un dossier, l'hanno mandato alla Camera Bianca e chiedevano come ha fatto a cadere la terza quindi torre. È un complotto americano? Cioè, non ci credi. Hanno portato delle tesi. Quindi lei crede più, mi scusi, lei crede alla tesi dicendo di dovete spiegarci com'è stato possibile questo crollo. Cioè non credi agli attentati in pratica? È anche quello è un attentato. Anche quello è un attentato. Fatto dagli americani. Un complotto americano. Quello, se vogliamo, anche se fosse stato fatto diversamente. Cioè non credi alla tesi ufficiale sulle Ha detto un complotto americano. Al-Qaeda o tutte cazzate. Bilderberg, è stato Bilderberg. L'idea che anche quello è un attentato, però diciamo che il Bilderberg magari Soros forse, no? Soros forse è stato. Cose che sono state secretate. Fermi tutti, ciao. Cosa? Amici miei carissimi, siete in ascolto la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Ibrido. Ieri sono stato con i miei figlioli a vedere le mucche. Praticamente siamo stati a vedere i vitelli, i tori di razza canina. E mio figliolo, no papà, non voglio venire via, voglio stare dalle mucche, non c'era verso di portarlo via. L'ho detto, Jarno, non ti preoccupare, vieni con papà, che andiamo a prendere un pezzo di mucca e ce lo portiamo a casa. 2 T-bone da 1,4 kg l'una, siamo ai top, siamo. Cruciani, quanto ti sento parlare così mi verrebbe voglia di darti tanti calci in culo, ma stai attento, perché tu parli troppo male degli animali, hai capito? I cacciatori hanno un'arma in mano, quindi debbono subire una visita medica. Non c'è niente di strano, sono vecchi rincoglioniti ubriaconi che non sanno nemmeno tenerle in mano un'arma e ogni tanto, ringraziando il cielo, si sparano fra di loro e spero che soffrano mentre muoiono. Tutto tutti! La signora F. Ball. Cos'era quel rumore? Un microfono rotto? Cosa no, è la signora F. Ball che mimava. Che mimava. Non ho sentito, meno male. Pompino. Non c'ero ieri, si vede. No, c'eri. Io faccio. Normalmente viene questo rumore quando succhio un cazzo io. Vabbè, grazie la corte, grazie per averlo specificato. Va bene. Allora, ragazzi, è tornata anche la Clementi in piazza, l'estetista Clementi. No, basta. Ma non ha niente da fare, ma non lavora. Ma cosa è l'estetista? Ma non è estetista, ma non ha da lavorare, ancora in piazza è tornata. Oh, mamma mia. Stavolta c'era la polizia penitenziaria che protestava, naturalmente, davanti a Montecitorio. Vabbè, quello. E la signora Clementi. E cosa c'entra lei con la polizia penitenziaria? È andata là per solidarietà. Ma non ha da lavorare, non ho capito. L'estetista Clementi. Com'è che si chiama di nome, che mi sono scordato, non mi ricordo? Emilia Clementi, estetista. Emilia. Palermitana, siciliana. Vabbè, ma quello ormai che a Roma. Ma che perché chiama, sta a Roma sempre? Ma sta a Roma perché il negozio ce l'ha a Roma. Che chiama i politici fitusi. Vai. Fitusi. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Sono a Montecitorio. Come potete vedere, non mi fermo. Sono qui insieme alla polizia penitenziale per i loro contratti, per tutto quello che stanno subendo. Buongiorno a tutti. Sono Emilia Clementi, la voce del popolo. Sono insieme alla polizia penitenziale, fitosi politici. Condividete, popolo, per i loro contratti, per tutto quello che stanno subendo. La polizia penitenziale. Cosa penitenziale? Che fa la penitenza? Che roba, ma adesso è? Perché la devi dare per il culo? Un errore ha fatto. Sono qui a rappresentare il popolo. Ma che roba è X Factor? Ma che cos'è? Viva il popolo italiano! Il coraggio di essere qui a Montecitorio! Eccomi! Con la bandiera dell'Italia! Senza partiti, senza movimento, ma solo con il popolo! Perché io sono italiana! E questi pitosi politici se ne devono andare a casa! Tutti, tutti insieme! Tutti insieme! Assunta da Roma. Ma è sconcertante. Assunta però, vuole, da Roma. Quanto ti piace a questa gente? Parenzo, che buonasera. Dimmi, Assunta. Dunque, stavo sentendo adesso Emilia Clementi, no? Clementi, sì, dimmi. Clementi. Sì. Niente, no, volevo complimentarmi con questa Emilia, ma... Con questa spostata. Ma se ne vorrebbero di più di Emilia. Ah, perché, più spostati. Cioè, veramente stiamo toccando il fondo. Abbiamo una quantità di spostati, signora mia. Quando che io c'era mi lui, qua. Quando c'era lui, Assunta, No, quando facendo. C'era lui, no! Italiani. Dai, sto dicendo che qui c'è gente che veramente, sì, come la sottoscritta, sì, vive con 500 euro al mese. Questo è giusto, Spiace, ma fa una fatica enorme. Questo è d'accordo. E invece, che cos'è un cinema, che cos'è un pranzo a un ristorante, che cos'è un viaggio, che cos'è capisco, una mostra. Bene, ma... Devi sapere invece, Assunta, devi sapere che a Parenzo piace molto invece la ricchezza, l'opulenza. No, ma chi gli alberghi, anche... magari, gli alberghi a 5 stelle. Ma non è solo a me. Che c'entra, ma non ha mai preso un treno locale. Ma non è vero, ma se anche oggi ho preso il treno stamattina disprezzi la povertà. Ma guarda che anche il povero disprezza la povertà e vuole uscirne. Infatti la differenza tra me e te è che io invece voglio ma a chi? Questi parlamentari che non fanno niente dalla mattina alla sera. Io infatti voglio che la povertà diminuisca, non aumenti. Lavorano, cosa fanno lì in Parlamento? Alcuni di loro ma sono cosa c'entra inutili, questo con le urla scomposte di quella signora, quella sì inutile, che va lì dicendo che sostiene la polizia penitenziale, che in verità è la polizia penitenziaria, sta lì a urlare dicendo parlo a nome del popolo italiano fetusi, anziché andare a lavorare. Questa è una cosa particolare. E lei mi dice ce ne vorrebbero di più di questi matti. I nostri diritti. Emilia, io voglio dirti coraggio, cerca di organizzare qualcosa. Guarda, ancora. Però anch'io, ma cosa c'è da organizzare? Ma quella non vuole il Parlamento, quella lì dice che non ci devono essere più i politici. No, i politici devono esserci, ma devono fare le cose ragazzi tante, senza però, governo devono... senza Roma. Governo, per esempio, ci sono paesi che sono andati avanti a meraviglia. Costanza da Roma, vai Costanza. Oh. Sì, eccomi. Dai, togli più la voce, vai. Eccomi, Giuseppe. Ciao, Davide. Salve. Dimmi, Costanza, dimmi. Ciao. Senti, allora, volevo parlare un attimo con Parenzo. Eccomi, cara. L'intervento della signora di Lodi. Allora, premesso che io sono coniugata con un cittadino UE. Extra UE. Cittadino UE, extra UE, che cazzo vuol dire? Di dove? Svizzero. Di Lugano, magari. È africano. Africano dove? Sei sposata o le fidanzata? Non ho capito. Sposata con chi? Sposata. Con chi? Con un ragazzo di colore di dove? Di Capoverde. Di Capoverde. Ah, è il capoverdiano. No, dico niente. Esatto, si chiama Paolo. No, perché sai, c'è una leggenda intorno a questa roba. Sì, sai è che una non vecchia si... leggenda, ma no, non facciamo Costanza, no, lo sai che ti dico? Perché oggi in Inghilterra è successa una cosa strana, molto strana. Cioè, dove? Viene in Inghilterra, alcuni tifosi, ci sono dei cori, dei tifosi del Manchester United, nei confronti di un giocatore che si chiama Lukaku, ed è il centravanti, magari tu non segui il calcio, del Manchester United. Come no, sono anche razziale, cioè. Esatto, allora questo Lukaku, che è il fratello di quello che gioca nella Lazio, attaccante del Manchester United, i tifosi fanno un coro in cui ironizzano sul fatto che sia super dotato. Allora questo qua, vengono accusati di razzismo per questo, perché pare che sia dire a un negro super dotato, a un nero super dotato, a una persona di colore super dotato, sia uno stereotipo da cancellare. Allora lì c'è un'associazione di non so che cosa antirazzista dell'Inghilterra che dice no, i tifosi del Manchester, ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Che non si può dire nemmeno a un nero che è super dotato, a un giocatore che è super dotato, perché c'è lo stereotipo del nero del Big Bamboo. Ora vengo vengo invece a bomba sul tuo fidanzato. Beh, amica mia, si sa non che a Capoverde mio marito. Tuo marito, scusami, si sa che a Capoverde uno va anche, una donna può andare a conoscere una persona di colore e innamorarsi dire? Anche per altri motivi, oppure appassionarsi anche alle caratteristiche fisiche. Sono luoghi comuni, succede anche questo, perché io in Africa ci sono andata tante volte lì, insomma. Sei andata a Capoverde, ma non ha niente a che fare, diciamo, questa storia con tutti gli stereotipi sul Big Bamboo, diciamo. No. Per carità, non voglio dire niente su tuo marito, Negli anni, e quindi poi dopo a fine. Cioè, mi stai dicendo che lui non ha il Big Bamboo, mi stai dicendo in sostanza. Però vabbè, di cosa volevi parlare, Costanza? Diciamo che geneticamente sono diversi. Cioè, sono più dotati, diciamo, sono più dotati. Hanno una genesi diversa. Vabbè, ma puoi dire tranquillamente, è più dotato degli uomini che ho incontrato in vita mia. Ma non è questo il punto, Giuseppe. Su. Vabbè, ma allora che cosa volevi dire? Sei sposata con un cittadino di Capoverde. Sì, benissimo. Esatto. E quindi dunque... io, diciamo, per quanto riguarda l'integrazione, i problemi. Vabbè, vai al sodo, vai. Che vuoi dire? Allora, la signora di Lodi. Allora, secondo te, Parenzo, posso essere razzista io? No. No, questo no, non credo. Però la signora di Lodi ha ragione. Però secondo me la signora di Lodi ha ragione. Brava, ha ragione. Tuo marito paga il biglietto sull'autobus. Ma certo, ma paga il biglietto. Benissimo, paga il biglietto anche se è disoccupato. Ma certo, la signora si è incazzata perché si è sentita presa per il culo da quei due, punto e basta. Esatto. Chi se ne frega, giusto, se lo fa anche con persone non di colore, chi se ne frega. Giudichiamo il fatto, quello che è successo. Si è sentita presa per il culo da quelli, ha reagito, ha detto delle frasi magari anche scomposte, però bisogna dare aiuto a questa signora, bisogna abbracciarla forte, bisogna solidarizzare, bisogna dire signora di Lodi, chiami alla Zanzara, no, la cercheremo, bisogna, lei bisogna diventare la bandiera della legalità, dell'ordine, della pulizia, delle regole. Giuseppe, della pulizia, Giuseppe, ma cosa dici? Dimmi anche tu, Davide, ascolta. Dimmi. Premesso che appunto non sono razzista, Capoverde, non potrò mai essere. Capoverde. Perché ti eccita così tanto la roba di Capoverde? È possibile Capoverde, che secondo voi il nostro paese possa continuare a accogliere tutti? Mio. Le cose vanno fatte bene in una certa misura, ok? Cioè, se non, io non me la prendo con le persone che vengono qua, non posso, non voglio, credo diciamo nelle loro ragioni, nei cercatori di felicità. Perché però uno, scusami, adesso a parte questi discorsi che tu non ce ne può perché fare, perché andare a Capoverde ancora Costanza, questa storia? No, ma interessante. Immaginavo, Perché uno sceglie proprio una donna italiana di Roma, sceglie uno di Capoverde? Ma perché? Cioè, c'è qualcosa, io a me non mi torna, scusami, ma Costanza. Che non ti torna? No, perché ti sei innamorata, sicuramente sei una bellissima persona, però c'è un po' un'attrazione verso questi corpi possenti. Ma cosa dici? No, ma ci sarà questo elemento, no, nella scelta di un uomo, ma non c'è niente di strano, non c'è niente di male, è una cosa, lo puoi dire tranquillamente. Certo, perché no? Mi sono innamorata soprattutto, esatto, bravo, why not? Soprattutto no. Però una parte importante è stato anche il Big Bamboo, diciamola tutta, dai. Ma saresti, guarda, Costanza, tu saresti onesta a dire, guarda, questa cosa qui, lui è una bravissima persona, mi sono innamorato perché è una persona eccezionale, mi sono innamorato delle sue, di quello che pensa, di quello che dice, va benissimo, ci credo, ti giuro, non sto prendendo, ci credo, però, i Big Bamboo a me mi fa morire, cioè mi fa impazzire, diciamola tu, no, Costanza, dimmelo, perché io lo so che è così. Solo questo, Giuseppe. Però è anche questo. Dopo un po' quello finisce, dai, lo sai anche finisce. Tu. Sì, questo è vero, questo è vero, questo finisce è vero. Per insomma, voi se non c'è dell'altro, voglia Big Bamboo. Però c'è questo elemento, no? Però c'è questo elemento. C'è tutto. Brava, se uno resta insieme a una persona, c'è tutto. No, ma io sì, ti credo quando dici una cosa del genere. Non è che non ma io volevo fare un intervento un po' più, capito? ma no, ma hai già detto tutto, ma non su questo. Hai già detto tutto sul fatto che sei dalla parte, pur essendo sposata uno di Capoverde, sei dalla parte della signora. Con questo hai già detto tutto, chiudiamo il cerchio, ti abbraccio, ti bacio e saluto tuo marito di Capoverde. Come si chiama tuo marito di Capoverde? Paolo Adalberto, persona onesta, persona regolare, persona non clandestina, che però non trova lavoro, non trova lavoro e non è che non protesta. Che lavoro vuole fare tuo marito? Lui ha pulito anche i bagni. Che si dice che non vogliono lavorare le persone. Che lavoro vorrebbe fare l'amico Paolo? Come si chiama? Paolo Adalberto, che lavoro vuole fare? Un lavoro che gli restituisca un po' di dignità. Ma sì, ma che tipo di lavoro? Lo possiamo aiutare in qualche modo con la Confindustria? Lo possiamo aiutare? Oh, bravo, conosciamo i padroni. Ho capito, qualsiasi cosa. Che cazzo vuol dire qualsiasi cosa? Cioè, sennò che lavoro che vuole fare? La sicurezza. Il porno star vuole fare porno star? No. Porno star no. Il vigilante qua sotto, qui abbiamo uno splendido vigilante qua sotto che sono persone anche di colore, bravissime persone, uno che anche mi adora di dice colore, persone anche di colore. Sì, persone anche di colore, tra questi anche persone di colore. Cosa vuol dire persone anche di c'è colore? C'è uno della Costa d'Avorio che io adoro, che mi viene ogni volta incontro e mi dice: "Tu fratello sei amico nostro, io fratello, lo so". No, sì. Invece ti ha sbagliato, perché fratello ascolta male la Zanzara, evidentemente. No, ma come sono no? Io amico vostro, persone fratello. Introdotte che odiano gli immigrati clandestini perché sanno che sono la vera rovina. Esatto, e tuo marito pure non li sopporta. Vabbè, la prossima telefonata è con tuo marito. Però Costanza, non adesso. Va bene. Alla però prossima, next allora. Days il signore della Costa, no, dov'è? Di Capoverde, marito di Costanza, sì, da Roma, di cui abbiamo saputo molte cose oggi, anche intime, sì, no, ci racconterà la sua esperienza, che lavoro vuole e soprattutto troveremo un lavoro al signor Paolo Adalberto di Capoverde. Mamma un'ottima iniziativa. Sì, hai guadagnato un posto in paradiso. Allora io troverò gli italiani. Io troverò un lavoro dopo una chiacchierata con Paolo Adalberto. I signori della Confindustria troveranno lavoro a Paolo Adalberto. Basta che sa fare qualcosa. Sono prendere impegni per la Confindustria. È difficile. Ciao, amica mia. Ciao. Ciao, David. Ciao, cara, grazie molte. Vai, spada di fuoco. Poltrini, scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, ed è morta. La Poltrini. La Zanzara. Ma scusa, riescono a prendere tutti quelli che vanno a Mignotte, tutti i clienti, e quello che a fine turno la va a prendere, quindi lo sfruttatore, per portarlo a casa, non riescono mai a prendere. Ma come mai? Sono riservato. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presento La Zanzara. Ma stiamo quasi al 2020 e ancora fa delle sorprese. Una telefonata, un messaggino, amore sto tornando. Almeno gli date il tempo per rifare il servizio. Che ne pensi delle nigeriane come prostitute, le signore nigeriane? A me mi piacciono uomini africani, sinceramente donne nigeriane bene, non lo so, però africani hanno un cazzo enorme, poi sono belli, grandi. Dottore, tu sei alto 1,50 e loro sono quasi 2 metri, capisci? Un bel uomo, grande, capiente al letto. Succhio tutti! Francesco da Torino, vai. Siamo ancora per dirti che bisogna sterminare animalisti e animali. Animalisti, e sterminare perché? Scusa, no, animali nemmeno. Ma... No, invece dobbiamo sterminare anche gli animali. Cominciamo dagli animalisti, che sono dei subumani, cominciamo da loro. Ma in cominciamo che senso subumani, scusa? E sono dei subumani, ma come può una persona affezionarsi a un animale, vivere per un animale? Ma stiamo scherzando. Ma ognuno è libero di fare quello che vuole, però scusami Francesco. Poi noi siamo autorizzati a prendere per il culo tutti gli eccessi o tutte le cose che ci vengono in mente. E loro, E loro quando dicono che bisogna sterminare i cacciatori? E loro quando ti infatti sono dei coglioni, perché ti metti sullo stesso livello di chi vuole sterminare i cacciatori? Non ho capito, dicendo che vanno sterminati gli animalisti, no, dai. No, perché prima o poi loro stermineranno noi, Giuseppe. Ma che, ma vai, sono quattro cialtroni, certo qualcuno esagera, bisogna sempre stare attenti, ma nessuno stermina nessuno, guarda, sono dei deficienti quelli che almeno dicono certe cose, sono dei poveri dementi. Giuseppe, stai diventando politicamente corretto. Io politicamente perché non dico che bisogna sterminare gli animalisti, ma che se ti ha dato di volta il cervello, va, ciao Francesco, ciao. Cioè, se non dici che vanno sterminati gli animalisti, ormai siamo arrivati a questo punto, capito? Pazzesco. Cioè, sei diventato moderato. Cioè, se non dici che la Boldrini va stuprata, beh, no, sei diventato moderato, ti sei boldrinizzato. Ragazzi, andate a fare in culo. Cioè, io sono libero di dire quello che voglio, non me lo dovete dire voi. Altrimenti sei diventato moderato. Ma vaffanculo, va. Allora, abbiamo in collegamento con noi, Parenzo, una persona che conosci. Si chiama Jonathan Targetti. Jonathan Targetti, no. Ed persona. Insieme al padre, uno dei più grandi rivenditori in Italia di divise e oggetti cimeli militari, in gran parte cimeli nazisti e fascisti, però anche altro materiale, cioè roba degli Stati Uniti, roba dell'Inghilterra, eccetera, eccetera. Jonathan, buonasera. Ciao. Eccolo, buonasera, un saluto a David. Allora, ciao, caro. Ovviamente, Targetti. Jonathan, che io conosco. Una brava persona, Targetti. Diciamolo meno male, subito. Meno male. Una brava persona, bravo sì, ragazzo, però tu, bravo imprenditore. Insieme a Fiano, vorresti distruggere il suo business? No, vorresti distruggere la sua bene, impresa? Introduci spiegando bene la questione e poi devo dialoghiamo. Spiegare, non devo spiegare niente. Spiega di cosa Jonathan parliamo, è incazzato nero come una biscia, giustamente, perché pur essendo iscritto al PD, giusto, Jonathan? Ti dirò di più, hai citato prima la Boldrini, boldriniano convinto, ancora più a sinistra, assolutamente democratico. Allora, Jonathan Targetti è boldriniano convinto, e nella tua vita certo. Che cosa hai votato, oltre al PD naturalmente? Beh, anche più a sinistra, radicali, il PD, assolutamente, sempre rimasto, sempre, e quando faccio politica, siccome sono passato di politica sotto locale, cerco di farla nel panorama del centro-sinistra. Della sinistra, cioè non hai mai votato a destra? No, nonostante questo, Targetti and Family, in particolare il padre che non si occupa di politica ma fa il tifo per la Fiorentina, da quello che so, sì, giusto? Siamo sfegatati. Allora, Targetti che cosa fa? Vende soprattutto cimeli e divise naziste. Qual è la cosa che hai venduto, più cara che hai venduto dell'epoca hitleriana, Jonathan, per esempio? Ma guarda, Giuseppe, scendendo nel particolare, non lo so, posso dirti che sono molto ricercate, molto costose le cose riguardanti, ad esempio, le truppe, la roba da paracadutisti, la roba tecnica, la roba che supera anche le migliaia d'euro, le decine di migliaia d'euro. Allora, praticamente la differenza vera è questa: Targetti non vende roba prodotta adesso. Io sono favorevole anche al fatto che venga commercializzata la roba che viene prodotta nel 1900, negli anni 90, negli anni 2000, eccetera. Vende solo roba originale, cioè una divisa appartenuta per davvero all'SS. Potrà fare orrore a Parenzo, ma c'è gente. Alla Wehrmacht, alla Luft. Comunque è molto semplice, guarda, con tutto il bene che io voglio a Targetti, credo che la soluzione potrebbe essere quella di convertire il business vendendo delle divise americane, ad esempio. Ma perché dovrebbe l'esercito americano? Davide, bellissimo. Oppure dell'esercito israeliano, ad esempio, stupendo. Cioè, usiamo le democrazie, vendiamo le divise, o dell'Armata Rossa, ad esempio, stupendo. L'Armata Rossa ha liberato, hanno liberato Auschwitz. No, però, scusami, ma perché li devi impedire di vendere le divise di Hitler o di Mussolini? Le divise io tendenzialmente non impedirei di vendere le divise, te l'ho detto mille volte. Però, se poi queste divise vengono usate per fare quelle baracconate a Predappio, vengono usate per rievocare uno dei periodi più bui della nostra storia, scusami, che è quello Jonathan, della Repubblica Sociale Italiana. Jonathan, le fiere dove vai? Sarebbero vietate nel caso passasse la legge Fiano? Sì. Allora, il problema della legge Fiano, per come è stata proposta, è stata approvata alla Camera, è scritta e non fa differenza tra ciò che è storico e ciò che è politica attuale, cioè ciò che è ideologico. Allora io sono sì, d'accordo. Però quelli gli interessa la propaganda, a quella roba là. Secondo loro è propaganda anche mettere su un banchetto. Questo è il punto fondamentale. Per me no, per i miei colleghi no. Per cioè tu che sei là, tu che sei per esempio hai un sito internet, no? Hai un sito internet, quella roba lì sei anni di galera. Sei anni? Per come è scritto adesso, sei anni. Allora. No, però ragazzi, ragazzi, colleghiamoci meglio perché non si capisce un cazzo. Il collegamento, tu non c'entri niente questa volta, cioè, non si sente niente a cellulare. Stava parlando con una radio degli anni 30, evidentemente. Jacopo Milano, dai, richiamate Jonathan. Già, Jacopo da Milano. Eccomi. Dimmi. Io sono un esponente della maggioranza silenziosa. Sì. E cerco in tutti i modi di non pagare mai il biglietto della TM a Milano. Male. Cioè, tu sei esponente della maggioranza silenziosa a Milano e cerchi di inculare i signori dell'ATM non pagando mai il biglietto. E perché, scusa, perché Jacopo? Perché statisticamente è da stronzi fare sta roba, visto che in 30 anni di onorata carriera sui mezzi avrò preso una multa sola. Quindi cioè, tu dici che alla fine, sì? Alla fine mi possono fare una multa, ma non sono andato gratis, non ma so non quanti conviene. Anni. Cioè, tu dici non conviene pagare il biglietto perché tanto al limite mi fanno una multa ogni 10 anni e dunque rientro, no? Ma questo, assolutamente. Ma questo perché, scusa, spiegami perché fai così? Ognuno si diverte a modo suo, ma d'altra parte... Per divertirti, succede? Perché lo fai? Non ho capito. C'è quel brivido del non essere beccati, oppure come vedi. Dire... Sì, ma fai un danno, non pagare il biglietto a un mezzo di trasporto. Scusi, lei è italiano o negro? No, è italiano, è italiano. Io sono okay. Italiano, ma sono nato in Senegal, quindi se volete potete darmi del negro. No, ma sei nero di carnagione? No. Ah, è bianco. No, è cristiano lei anche? Sì. Ma non è cristiano. Beh, allora non ci interessa, scusi, no, stavo facendo i casting per dalla vostra parte. Non ci interessa, scusi. Se lei è bianco e non paga il biglietto, non ci interessa. Scusi, stiamo facendo i casting per dalla vostra parte. Jacopo, No, non ci interessa più. Si chiama Jacopo. Non si chiama Bu. Non è negro, è bianco. Non paga il biglietto, non ci interessa. Grazie. Sentiamo un negro. È così, fai. È così. No, non ci interessa. Grazie della testimonianza. Quella donna di Lodi è da compatire. Non è né da premiare. No, né però da, scusi un attimo. Lei guarda detto, che è dalla parte tua questo qua. Dice no, perché è da compatire? Però perché voglio da compatire? Capire. Perché secondo quel tipo di persona che si scusa come dire, queste situazioni per sfogare le proprie incazzature, le proprie rabbie, frustrazioni. Ma scusa, ma perché noi non prendete in considerazione l'ipotesi che questa qua si è sentita presa in giro da delle persone che stanno su... Magari paga un abbonamento per 50 euro al mese e tu invece non paghi il biglietto, andresti denunciato, perché adesso io ti denuncio per tutti i biglietti che non hai pagato, capito, Jacopo? Sì. Perché poi ti lamenti pure sui mezzi di trasporto magari che non funzionano. Magari i mezzi di trasporto non funzionano e tanto non paghi il biglietto. No, e magari dici anche ti devi vergognare di quello che hai detto. E magari urli pure gli immigrati devono rispettare le nostre regole e poi non paghi il biglietto. No, ma Jacopo in realtà se ne fotte, lo fa per prendere per il culo i controllori, per prendere il culo le aziende, per prendere per il culo il comune. Posso dire una cosa? Dimmi. Nei paesi evoluti spendono per far sì che sui mezzi possa salire solo quelli che vengono controllati all'ingresso dell'autobus. Siccome noi non abbiamo voluto spendere, abbiamo come dire pagato delle prebende a qualcuno che fa il controllore. Non abbiamo questo tipo di tecnologia. Vabbè, però adesso non la fare difficile, Jacopo. La realtà è questa. È vero, hai ragione in parte. Però tu non paghi il biglietto semplicemente per sberleffo. Perché vuoi prendere. Ricordate quella battuta di Grillo che fece 20 anni fa, quando dice: sono salito su un autobus a Roma, ho timbrato il biglietto. E l'autista si è girato spaventato dicendo: che cazzo è sto rumore? E non c'erano 20 anni fa gli immigrati. Fermo, Jacopo. Fermo lì. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Parenzo, sei talmente sei talmente coglione che fai venire voglia di vomitare. Tutte le volte che ti si ascolta fai vomitare. La signora di Lodi ha tutte le ragioni del mondo, cazzo. Tutti dovrebbero fare così con questa gente che fa i cazzi suoi perché sa di rimanere impunita grazie a coglioni buonisti di merda come te. Parenzo, vaffanculo. Parenzo, tu hai la testa solo per dividere le orecchie, vergogna. Continuo a dire, caro Parenzo, che una palla in fronte a te non te la leva nessuno. Fidati, sei un pezzo di merda comunista. Fidati. Questo è grave però, questo è grave, caro Davide, questo è grave, ma domani non ti preoccupare. 20 e 37, 60 secondi, praticamente 4-5 reati, minacce, ingiurie. No, quest'ultimo è grave. In un minuto penso battuti quasi tutti i record ormai. No, però no, quest'ultimo è grave, quest'ultimo è molto grave, domani faremo qualche cosina. Verifichiamoci, allora, chiamiamolo magari, no? Abbiamo il numero di questo qui, aspetta, giusto? Aspetta. Aspettiamo. Allora, l'imam che approva la necrofilia, sia il sesso con la moglie morta. non so se questa notizia sia vera, non so se sia vero o sia un fake. Ma cos'è? È una notizia già uscita ieri, però la voglio ricordare al pubblico della Zanzara. Il professore all'università Al-Azhar del Cairo, in Egitto, sostiene il diritto dell'uomo a fare sesso con la moglie dopo la morte. L'ira dell'Ateneo, ma lui non cambia la versione. Facciamo un collegamento per dalla vostra parte, da lì, mandiamo Poletti via l'Ateneo. Il coito da Dio è insolito, avrebbe detto questo studioso dell'Islam, ma è halal. Cioè è permesso, ma è un fake news pazzesco, matto che ha detto sta roba, e cosa diventa il titolo di un giornale? Jonathan Targetti è collegato con noi, non so da dove. L'ottimo Targetti dovrebbe vendere divise americane, cosa che già fa, divise dell'esercito russo, ad esempio dell'armata russa, che liberò Auschwitz. Perché gli devi fare cambiare business? Scusa, perché gli devi fare cambiare affari? No, ma infatti io non ho nulla contro di lui, anzi, ma contro di lui no, magari contro quell'altro che vende i busti di Hitler, sì, però quelli che apre d'appio vendono quelle porcherie fasciste, devono convertire anche lui vende le divise naziste, Jonathan, vende le divise naziste. Beh, io voglio sapere, ma chi è che compra una divisa nazista? Questo mi interessa proprio. Ma Davide, noi collaboriamo con musei, con teatri, con la moda, quindi la legge Fiano andrebbe a colpire anche questo tipo di commercio. No, questo lo capisco. Ma andrebbe distinto, ad esempio, se tu rischia dei soldi. Infatti, ma no, lui targetti, no, però scusami. Andrebbe distinto, cioè se va fatta una messa in scena del nazismo, è ovvio che c'è bisogno delle divise, no? Ma questo nessuno la vorrà colpire. Il mio amico grande regista Marco Tullio Giordana fa un film sugli anni 30, è ovvio che ha bisogno di andare da Targetti. Altra cosa è comprarli, fare la marcia su Roma o andare a commemorare Salò vestiti da fascisti, quella è un'altra cosa. Ci sono già leggi che colpiscono questo tipo di atteggiamento. Scusami Jonathan, la realtà è questa, che tu non potresti nemmeno fare il commercio online delle tue cose, questo è il punto. Assolutamente. Ecco, vedi, lui ha un sito internet e rischia fino a quanto di galera? Fino a sei anni di galera, perché c'ha le svastiche e la testa di Hitler, il Mein Kampf, che vengono venduti sul suo sito internet. Questo è il punto fondamentale. Giuseppe, sono stato in Germania e ti arriverà in questi giorni, ho fatto spedire una copia originale del Mein Kampf come regalo per il tuo compleanno. Beh, molto bene, grazie, ti ringrazio. Va bene, ma quella può essere una cosa da collezione, certo, vabbè, io lo posso anche capire, va benissimo, quello potrei volerlo anch'io, ad esempio, ma semplicemente... Questo vota del PD, vota PD, questo è iscritto al PD, ha votato la Boldrini, Fiano, sveglia! Fiano è sveglissimo, quindi non ti preoccupare. Ma non mi pare, guarda. Ma il nostro, Emanuele, Fiano, come ti ha risposto a queste obiezioni anche corrette che tu hai fatto? Non ci ha mai parlato. No, l'appello è a incontrare Fiano e a discutere di questo, perché è una legge anche che io appoggio e sostengo. Ma che appoggi? Ma dai, tutto quello che riguarda certo, la propaganda, esatto, bravissimo, predappio, va chiusa quella roba lì, bravissimo, certo, sono d'accordo con Targetti. La bottiglia di vino, ma perché vuoi chiudere quelli che fanno la bottiglia di vino con l'etichetta di Mussolini? Quella è una stronzata. Con la storia, Giuseppe, ma chi se ne frega, ma hanno il diritto pure loro di vendere il cazzo che vogliono. No, ma dai, è propaganda quella, è propaganda fascista, è propaganda fascista e criminale. Le cose tue sì. No, ma lui ti ha spiegato un'altra cosa, cioè lui le divise ci sono collezionisti nel privato, non è che vengono usate per fare della propaganda. Questo ti sta spiegando l'ottimo Targetti, che ha tutto il mio appoggio. Altra cosa è fare quelle baracconate adunate storiche in cui si rievoca il ventennio. Ciao ragazzi, me ne vado anch'io. Allora, Mattia da Mantova, vai. Sì, salve, ciao. Chiamavo per una proposta. Qual è? Sarebbe un bello scambio culturale, come si fa alle superiori, mettere il paraculo dei parioli tre mesi. Chi abita i parioli? Tu. Non abita i parioli, il paraculo di Prati ecco, dove? Grazie. Il nano giallo, metterlo in un centro d'accoglienza per due o tre mesi. Sono stato in un centro d'accoglienza. Sono stato a denunciarli, a vedere come vivono. Sono stato lì a fare tanti servizi. Devi starci due o tre mesi. Sono stato a Lampedusa tante volte, sai, ignorante. Due o tre mesi a casa tua, così quindi, magari. E cosa succede? Perché vuoi fare questo scambio? Con l'idiozia. Così e cosa capisci? Qual è l'idiozia? Il senso idiota di questo intervento? Qual è? Cosa capisco? Sentiamo, cosa capisco? Cosa capisci? Se vede il migrante a casa mia, sentiamo. Siccome sei a favore di tutta questa immigrazione incontrollata, e quindi puoi andare a vedere con i tuoi occhi come vivono comunque anche loro, in che disagi hanno, e invece facciamo stare per 2-3 mesi un migrante, lo facciamo vivere secondo i tuoi canoni. Ma che bella iniziativa, ma che intervento intelligente. Capita un bel congolese, tua moglie sarebbe felicissima. Ma che bella iniziativa, divertente. Una battuta nuova e divertente. C'è un titolo che ti devo segnalare assolutamente secondi, ve l'hanno messo dalla vostra parte poco fa. Dimmi. C'è un immigrato in bicicletta, attento, immagini la scena, immigrato in bicicletta, titolo: allarme violenze, 2 punti, città a rischio e gli stupratori la fanno sempre franca. E c'è un signore, un immigrato in bicicletta di spalle, che magari stava andando al lavoro. Allora, c'è un tizio che si chiama Tedesco, che è praticamente il capo di una sezione di Legambiente in provincia, credo, di Salerno, Giffoni, una cosa di questo tipo, il quale ha fatto un concorso mettendo in palio come primo premio Legambiente, ambientalisti, un fucile da caccia. Ovviamente se lo stanno inculando. Io invece voglio esprimergli la grandissima solidarietà della Zanzara. Legambiente, cioè ambientalista, a favore della caccia, chiamiamolo. Beh, interessante. Pronto? Beh, amico mio, come stai? Sì, chi è che parla? Tedesco, sono Cruciani, Radio 24, ciao. Ah, Radio 24, mi... Come andiamo? Non c'è male. Ma io che è successo? Che sei stato sospeso, il circolo è stato commissariato come se fosse un partito? Che è successo? Non lo so veramente. Ma scusami un attimo, sei stato sospeso perché in una specie di lotteria il primo premio era un fucile da caccia e il secondo una canna da pesca sportiva. Qual è il problema? Non lo so, perciò questo voglio capire bene pure io. Difatti sono momenti un po' da discutere, da vedere momenti un po' da come funziona questa cosa. Scusami Enrico, scusami un attimo, io sono dalla parte tua. Certo che però, essendo tu di Legambiente, primo premio fucile da caccia, Legambiente penso può che... Può sembrare fatto, ma noi non è che di fatto la manifestazione è stata sospesa. Come mai proprio un fucile da caccia hai scelto come primo premio? Appunto. È perché c'erano molte associazioni di cacciatori, di pesca, di cose. E allora per accontentare loro, perché noi abbiamo avviato questa storia per fare una cosa bella di sport, io cerco di dialogare con i cacciatori, perché sono pure loro ambientalisti, per come la vedo io. Bravo. Sono gli animalisti. Tu sei a favore della caccia, no? Vabbè. Ma sì, finché quando è regolata, è che posso essere un animalista come fanno gli altri all'ennesima potenza. Bisogna essere ambientalisti, perché c'è una confusione tra ambientalisti. C'è molta confusione, non c'è dubbio. Scusa, ma che ne pensi dei vegani, per esempio? Dei signori vegani? C'è confusione. Ma dei vegani, purtroppo, ci stanno... Ognuno ha il suo modo di prendere. Io sono tradizionalista, preferisco anche la bistecca, insomma. Non posso dire... Legambiente, certo. Non c'è... Esatto. Tu preferisci, continui a mangiare la carne tranquillamente, ma quei vegani che dicono, per esempio, che ne so, che la vita di un uomo è uguale a quella di un animale. Beh, quello, qualcosa da dire ce l'hai su questo, no, Enrico? C'ho qualcosa da dire. Dalle altre parti, in Cina se le fanno con le patate al forno, noi qua li mettiamo le mutandine e le mettiamo a letto. Questa è una contraddizione da vedere chiaro sugli animali. Gli animali devono fare gli animali e gli umani devono fare gli umani, insomma. Ma non ci sembra giusto. La metafora è interessante. Cioè dici in Cina che cosa che... Se li mettono a forno con le patate, cane, e noi qua gli mettiamo le mutandine e li mettiamo a letto, insomma. Questo è il controsenso della cosa. Quindi se dobbiamo discutere sulle cose, ecco, ma tu come li consideri quelli, cioè che ne so, tutta questa propaganda vegana che c'è in giro, quando uno va in televisione e dice... Secondo me vanno contro la natura, come il mio punto di vista ambientalista, un po' come i gay. Sì, è chiaro. Anche i gay sono un po' contro natura, o sbaglio? Sì, io li accetto, perché giustifichiamo tutte le cose, però preferisco non me lo dice la parola, sto in uno studio avvocato. Io preferisco insomma la patata al forno con, ma, sì, ma sì, non certamente. Ma cosa c'entra l'omosessualità? No, con la... voglio dire, anche quelli sono contro natura, nel ma senso che contro preferisco natura? La figa. Noi ci piace la figa, diciamo, ma la vabbè, verità. Ma questo non occorre dirlo così. Ci piace la figa. Ho capito, ma perché bisogna dirlo così? Chi se ne frega? Che so, cioè, a te, per esempio, ti piacerebbe prenderlo nel di dietro? No, immagino. No, mi dispiace. Ma nessuno glielo chiede, infatti, non ho capito cosa vuol dire. Scusami, ma Legambiente. Come soprannome, oltre a essere presidente di Legambiente, sì, mi chiamano un grillatore. Come ti chiamano? Come scusa? Chiamano? Un grillatore. Come un trivellatore, no? Come un trivellatore. Vabbè, una dopo questa. Ma c'ho un po' l'età. Quanti anni hai? Incredibile. Quanti anni hai, scusami? Incredibile. 65. Beh, 65. Beh. Ma c'hai, hai un bel attrezzo? Abbastanza pure. Regolare. Diciamo. Come li definiresti te questi gli animalisti, quelli più estremi, i vegani, eccetera? Una parola per definirli? Adesso in questo momento non mi viene, ci devo riflettere bene perché è una parola molto pesante. E quindi no, ma dimmela molto... tranquillamente, dimmela tranquillo. No, mettiti... no, ma non posso adesso definire certe non cose. I circhi, per esempio, ti piacciono i circhi? Sì. Beh, cerchi. E perché li devono togliere? Quella perché... è una tradizione. Molto esatto, bravo. Bravo. Appunto, questo no, io posso dire una cosa, bravo. Sarebbe adatto a fare il presidente di Legambiente in realtà, perché è tollerante e vuole i circhi, gli piace la caccia, vabbè, gli piace la carne, ama gli animali. Non so quanto sia compatibile la caccia con Legambiente, però benissimo. Ma, so non, ma io noi non diciamo, la caccia non è per istituzione che dobbiamo fare la caccia. La caccia purtroppo è... l'uomo è cacciatore da una vita e sarà sempre cacciatore. Bravo, non si bravo. Può annullare questo. Bravo, facciamo, fai la rivoluzione dentro Legambiente, fai il casino, fai bene, l'inferno. Sì. Ciao amico mio, ciao. Antonio Torino, vai Antonio, vai. Io vai Antonio, non si capisce un cazzo. Dai, metti bene sto telefono, dai. Oh. Allora? Antonio. Franco, provincia di Salerno. Questo è un coglione, richiamiamolo domani. Dai, Franco, dai, Franco. Pronto? Veloce, vai. Pronto. E niente, ti volevo dire che a me mi è successo un fatto particolare mentre venivo da Salerno. Sì, che ti è successo? Vai. Ho trovato degli ex comunitari che praticamente il controllore gli ha detto se devono il biglietto. E allora? E loro hanno detto no, noi non ce l'abbiamo. Il controllore li ha invitati a scendere, sì? E non hanno voluto scendere perché hanno detto se noi scendiamo il treno non parte. E allora? Allora che io mi sono trovato da solo, avevo pure un mezzo appuntamento, mi sono alzato, che non sono il tipo, ho detto vicino a questi tre ragazzi, se non ve ne andate finisce male. E allora? Allora che mi hanno guardato e mi hanno detto, si sono buttati in faccia, ho preso il portone, gliel'ho buttati giù, il controllore mi ha guardato e ha detto ti ringrazio, ma questa è una storia di tutti i giorni, e ho pensato a Parenzo, ho detto se stava Parenzo qua che faceva? Gli pagava il biglietto o gli diceva i fratelli miei non vi preoccupate, dicevo, guarda, hai fatto dicevo, bene si a scende, buttarli giù dal treno, benissimo, fermi tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.